Letture di Radio 24. Salire sui ponteggi o sui tetti delle fabbriche per protestare sta diventando ormai un modo abituale per far valere i propri diritti. Ma come evidenzia il caso di Brescia, a volte si rivendicano diritti che non si hanno. Ma è possibile che per dirimere una controversia lo scontro sia per definizione meglio della mediazione? Il caso di Brescia è emblematico. Per 17 giorni, dal 30 ottobre, quattro immigrati, che inizialmente erano 8, hanno vissuto su una gru nel cantiere della metropolitana, sostenendo di aver pagato il dovuto per regolarizzare la loro posizione, senza però ottenere la sanatoria. E solo grazie alla Caritas, ai sindacati e a comunità etniche è arrivata la soluzione, dopo tensioni fra chi li difendeva e chi viveva in un quartiere blindato e con autobus deviati. Perché? Perché Umberto Gobbi, presidente dell'Associazione Diritti per Tutti, anziché pensare appunto ai diritti di tutti, aveva organizzato un presidio a tutela degli immigrati, tanto da costringere le autorità a sgombrarlo l'8 novembre. Cariche della polizia, arresti e denunce. Gobbi è stato denunciato per istigazione alla violazione delle leggi. Non deve sorprendere, dunque, se il 13 novembre una settantina di giovani, forse anarchici, si è infiltrata in un corteo di solidarietà lanciando una bomba carta, sassi, bottiglie e ferendo almeno 20 tra poliziotti e carabinieri. L'Associazione Diritti per Tutti si è dissociata, ma non basta dissociarsi in una città che conta 36.000 immigrati su 194.000 abitanti. Servirebbe collaborare. L'episodio di Brescia rischia di diventare un alibi per chi rivendica diritti che non ha e ora può pensare di aggirare la legge salendo su una gru. Chi tutela gli immigrati dovrebbe farlo capire a loro per primi, ma Gobbi e tanti come lui non la pensano così. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Vespa, Datemi una gru e vi solleverò la piazza, da Panorama del 25 novembre. Letture di Radio 24. Ci sono dei piccoli piaceri che rendono la vita migliore, difficili da catalogare o da suggerire, dato che ognuno ha i propri, ma due donne ci hanno provato. Vasetto di basilico, le pesche mature, il pane caldo, la schiuma sul cappuccino, le impronte sulla neve, un giorno alle terme, le lenzuola fresche. Piccoli piaceri come quelli suggeriti dal minimalismo positivo di Philippe Delerme. La prima sorsata di birra, uscito nel 1997 in Francia, è stato un incredibile caso editoriale. 330.000 copie vendute in poche settimane hanno trasformato uno sconosciuto professore del liceo di Bernay in una star. E ora tocca a Maëvi Haran, ex giornalista e produttrice TV, che ha scalato le classifiche di Amazon.co.uk. Il suo libro, La schiuma sul cappuccino e altri piccoli piaceri che possono salvare la vita, in Italia esce da PM, è, sostiene il Sunday Times, una delizia ed è la risposta a una domanda difficile. Come possiamo rendere migliore la nostra quotidianità senza che la soluzione sia immorale, illegale o faccia ingrassare? Maëvi Haran lo sa. Era depressa e le amiche, ancora più depresse, le raccontavano i loro disastri sentimentali. Così pensò bene di scrivere su un foglio le cose che rendevano bella la sua vita. Erano 270. Non ha più smesso. Ho lasciato passare un'auto in coda e l'autista mi ha sorriso. Ho dato un morso a una mela fragrante. Ho chiamato il tecnico per la lavastoviglie dopo mesi di rinvii. Ho regalato un mazzolino di fiori a una persona che li ha apprezzati tantissimo. Ancora oggi annota e il foglio, nel frattempo, è diventato un libro. Il gioco dei piccoli piaceri è uscito dalle chiacchiere tra amiche, è entrato nel web, ha scatenato una corsa alle liste in tutto il mondo. Un po' quello che è capitato con 1000owsomethings.com, mille cose stupende, di Neil Pasricha. Trentenne canadese in crisi, divorzio, problemi sul lavoro. Nel 2008 ha pubblicato nel suo blog un elenco di gioie quotidiane. Una nevicata inaspettata, due sedili liberi in un lungo viaggio aereo, un perfetto palloncino con il chewing gum, la fine di un fastidioso singhiozzo, la vittoria su un nodo apparentemente impossibile da sciogliere, una fila di semafori verdi. E i commenti sono diventati un fiume in piena, un successo globale travolgente. 17 milioni di visitatori in pochi mesi, 50.000 al giorno, un libro, uscito lo scorso aprile, una serie TV, un nuovo lavoro come trainer motivazionale. Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma forse il minimalismo ci salverà davvero, come suggerisce anche il controverso filosofo-economista francese Serge Latouche. E forse si spiega così l'attrazione fulminante per le liste di piccoli piaceri e il desiderio di aggiungerne qualcuno dimenticato dagli altri. Nel film Il favoloso mondo di Amélie del 2001, la protagonista suggeriva che può essere delizioso tuffare la mano in un sacco di grano, far rimbalzare i sassi sulla superficie di un canale, rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaio. E aveva ragione. Certo, potremmo obiettare che si tratta di un ripiego consolatorio per chi deve accontentarsi causa crisi. Invece no, i piccoli piaceri sono ecumenici e interclassisti. A Margaret Thatcher dava grande soddisfazione togliere la lanetta che si trova nella centrifuga. Strano dettaglio da raccontare in un'intervista. A Kate Winslet, l'attrice di Titanic, piace arrotolarsi una sigaretta. A Ian Rankin, re del giallo scozzese, cercare ispirazione all'Oxor Bar. A Misha Barton, emergente a Hollywood, andare dal parrucchiere. Piaceri non tanto diversi dalla folla anonima che deposita i suoi pensieri di blog in blog, elencando nella hot list il pelo morbido dei gatti, l'alba con gli amici, l'odore dell'erba tagliata, tornare nella mia tana da single, felice di non trovare una donna rompiballe e, perché no, con una giusta nota pragmatica, pagare l'ultima rata del mutuo. Minimalismo positivo, appunto, antico patrimonio dei poeti, come quello dell'astronomo e filosofo persiano Omar Khayyam, che già mille anni fa scriveva: «Sii contento di questo momento è la tua vita». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rosalina Salemi, «Cose piccole per piaceri grandi», dalla Stampa del 27 ottobre. Mentre negli aeroporti cinesi i passeggeri sono costretti a subire ritardi sempre maggiori, aumenta il numero di nuovi ricchi che si mettono in volo su jet privati ed elicotteri, spesso senza autorizzazione. Misteriosi oggetti volanti solcano i cieli cinesi, ritardando e deviando voli e facendo perfino chiudere aeroporti. I controllori aerei in diverse località cinesi hanno più volte lanciato l'allarme: oggetto volante non identificato. E gli aeroporti in questione sono stati chiusi per più di un'ora. Ma per quanto la Cina sia uno dei paesi al mondo maggiormente entusiasti all'idea dell'esistenza degli alieni, guardando più da vicino il problema, si scopre che l'allarme non è dato dall'arrivo improvviso di creature dello spazio, bensì da voli illegali compiuti senza preavviso da jet privati ed elicotteri. Ultimo capriccio dei super ricchi cinesi, che preferiscono pagare l'eventuale multa, che va dagli 800 euro circa fino a un massimo di 9.000, che non dover sottostare a lungaggini burocratiche e prenotazioni del corridoio aereo. L'11 settembre scorso l'aeroporto di Bao Tao nella Mongolia interna è stato chiuso per più di un'ora. Il 12° avvistamento di un UFO da parte dei controllori aerei da giugno in varie aree della Cina interna e costiera. Anche città importanti come Shanghai si sono viste chiudere entrambi gli aeroporti, dopo che un elicottero privato aveva reputato opportuno farsi un bel volo senza avvertire nessuno. I voli clandestini sono chiamati voli neri e sono stati definiti dal South China Morning Post di Hong Kong come un segreto pubblico fra i piloti nazionali. Il problema sarebbe di natura burocratica e militare. In Cina, infatti, lo spazio aereo è riservato a voli militari o commerciali e per poter compiere un volo privato bisogna fare domanda 7 giorni prima per un solo volo e ottenere l'autorizzazione. Per cui chi ha possibilità di volare privatamente ormai decide di volare prima e vedersela con la legge poi. Così si moltiplicano i voli, in particolare in elicottero, privi di autorizzazione e a bassa quota, in modo da non essere reperiti dai radar. Tutti, sia i nuovi miliardari che i produttori di elicotteri, aerei da diporto, si lamentano che la regolamentazione cinese sia eccessiva e fuori passo rispetto alle nuove esigenze dei ricchi. In realtà, il settore aerospaziale è in piena espansione e uno di quelli su cui punta il governo per passare ad un'economia trainata dall'alta tecnologia invece che dai prodotti a basso costo. I passeggeri che possono permettersi solo un biglietto di linea sono invece condannati a ritardi sempre maggiori agli aeroporti cinesi, fra congestione del traffico aereo e nuovi ricchi volanti, che i controllori di volo continuano a dover descrivere come oggetti volanti non identificati. UFO. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ilaria Maria Sala, UFO miliardari nei cieli cinesi, dalla Stampa del 16 novembre.